Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Denaro sì, denaro no, con duo di denari puoi guadagnar se vuoi ascoltar Meazza Rosciani. Se allo spread tu dici no, più interessi ti darò. Fuffa fifi, fuffa fifi, oh che meraviglia! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. È così, guarda, una tua trasformazione, così lunedì mattina, Deborah. Chissà se faremo questa fine io e te. Questa evocazione di una grandissima, dello spettacolo italiano, due grandissimo spettacolo italiano. Perché partiamo con la sigla di Casa Vianello? Perché celebriamo quest'anno i 10 anni dalla morte della storica coppia dello spettacolo Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, e questo anniversario riceve un omaggio filatelico e postale con l'emissione di un francobollo valido per la posta ordinaria. La vignetta del francobollo mostra una caricatura realizzata da Bruno Prosdocimi, che ne sintetizza alcuni programmi di grande successo. E d'altra parte, insomma, se noi pensiamo che Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno fatto un po' la storia della televisione in Italia, accompagnando la parabola prima della Rai, la Rai degli anni 60, e poi con le televisioni private, appunto con Mediaset, con Canale 5, è evidente che questi due signori, questa coppia, è rimasta, esatto, nel cuore di tutti, e adesso anche sui francobolli. Senti, una domanda però, ma quanta gente ancora compra i francobolli per spedire lettere e cartoline? Ecco, questa qui è una bella domanda, però questa vignetta, questo francobollo, mi immagino che potrà essere anche collezionato dal punto di vista filatelico. Peraltro, trattandosi di Casa Vianello, ci stava proprio bene anche per l'argomento della puntata di oggi. Perché parliamo di mutui. Questa mattina l'avevamo promesso ai nostri ascoltatori, il Sole 24 Ore la settimana scorsa ha fatto addirittura una giornata dedicata proprio all'apertura, alla prima pagina, a questo argomento, ai tassi di interesse sui mutui che sono ad un livello basso, bassissimo, condizioni irripetibili. Lo stiamo dicendo da un sacco di mesi, perché stanno andando sempre più in giù, e ogni volta ribadiamo che condizioni così vantaggiose non le potremo mai più vedere prossimamente, e poi in realtà veniamo smentiti settimana dopo settimana perché si toccano livelli sempre più bassi. Allora abbiamo voluto riportare all'attenzione dei nostri ascoltatori questo argomento, perché il tema della casa vi piace moltissimo, così come il tema del mutuo. Condizioni molto vantaggiose che inducono molte famiglie a pensare di fare questo investimento nel settore immobiliare, anche se per la verità la condizione economica della famiglia a causa della pandemia e di tutto l'effetto economico che questa ha determinato, insomma, è una situazione che ha reso molto più fragili le condizioni finanziarie delle famiglie. Quindi chissà in quanti hanno la voglia di progettualità, di progettare un investimento così impegnativo. Nel caso in cui siate in procinto di stipulare un mutuo, oggi vi daremo un po' qualche indicazione: che tasso spuntare, che tasso chiedere, che tasso considerare. Sia per coloro che devono sottoscrivere mutui nuovi, magari, Mauro, ma poco prima di andare in onda abbiamo ricevuto in realtà la mail di un ascoltatore che vorrebbe rinegoziarlo, e magari allora, siccome il mercato è fatto in larga parte in questa fase di surroghe, cerchiamo di capire anche se è il momento giusto per fare questa operazione. Un ascoltatore, come ha detto Deborah, già ci ha scritto la nostra casella di posta elettronica 2didenari@radio24.it. attenzione, che è scritto tutto con le lettere. Se volete però intervenire in diretta, 800 24 00 24. Se volete mandarci un messaggio SMS oppure con WhatsApp, 349 238 6666. Parleremo di mutui, certo, ma prima di tutto, essendo lunedì, c'è il Meteo Borsa. Meteo Borsa. Le previsioni del tempo finanziario questa mattina le abbiamo assegnate a Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, che salutiamo. Buona giornata e buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buona giornata e buongiorno. Per la verità non è una giornata altrettanto buona per i mercati finanziari, perché l'avvio di questa ottava è pessimo. Ci sono cali di almeno 2,5 punti su tutti gli indici europei. Naturalmente le borse hanno preso atto che la pandemia è tutt'altro che terminata e ancora non ha dispiegato probabilmente tutti i suoi effetti economici, ma soprattutto gli operatori a questo punto direi che temono l'arrivo di nuovi lockdown, che potranno pure essere parziali, Riboldi, ma in ogni caso molte economie, molti governi ci stanno pensando, da Londra ad altri paesi. Insomma, ci racconta un po' le ragioni per cui questa mattina il clima è così cupo in borsa? Sì, questa mattina è decisamente una giornata che è in linea col tempo di Milano, piuttosto grigio, piuttosto brutto. Il motivo principale, come avete detto voi, è legato al fatto che c'è la realizzazione che i mercati avevano corso parecchio, le aspettative di ripresa economica erano andate via via migliorando, direi da giugno-luglio, con dati macro migliori delle attese, dati macro dal lato economico meglio delle attese. Adesso, andando nel quarto trimestre, ci si aspettava un proseguimento di questo recupero, invece ci si rende conto che il vaccino non arriverà prima dell'aprile 2020, aprile-marzo 2021 più o meno, poi la certezza la vedremo solo più avanti. E dall'altro lato invece i lockdown si stanno intensificando, perché purtroppo proprio in Europa si è avuta una forte recrudescenza del virus. Quindi quei settori ciclici di cui l'Europa è abbastanza piena nei propri indici avevano avuto un'ottima performance nell'ultimo mese e mezzo, due, e adesso c'è stato un po' di presa di profitto, e direi che probabilmente per qualche giorno saremo in linea con questa tendenza. Quindi potrebbe essere una cosa che potrebbe durare qualche giorno. Sì, non così forte sicuramente, però diciamo veniamo anche con una borsa americana. Esatto, che ho la sensazione che Trump troverà il modo di arrestare anche il trend discendente, se mai avesse la sensazione che potrebbe essere duraturo, che possa essere duraturo. Ecco, è introdotto un tema importante, ci avviciniamo alle elezioni americane che chiaramente sono sempre un elemento importantissimo, perché crea ovviamente incertezza. L'incertezza non è amica dei mercati. Trump sicuramente ha sempre fatto della forza delle borse uno degli elementi della sua campagna elettorale, e quindi in questo momento ovviamente sarebbe una cosa molto negativa una discesa della borsa. Tuttavia c'è da considerare che difficilmente da quale elezioni la banca centrale americana, che ha appena fatto il meeting ricordiamo la settimana scorsa, introdurrà nuovi stimoli monetari, e dall'altra parte il governo americano sono un po' di settimane che sta discutendo di come rinnovare gli aiuti ai consumatori e alle aziende. E questo è un altro punto importante, perché da qui alle elezioni, se verrà fatto qualcosa, che è probabile, è difficile che sarà fatto in maniera così importante da cambiare le aspettative degli operatori. Quindi viene meno un po' quel supporto che rimane sicuramente strutturale sul lungo termine, molto positivo per i mercati azionari, ma sicuramente nel breve, da qui alle elezioni, non ci sarà quel supporto che è stato la benzina delle borse. Tra l'altro, fino alle elezioni, l'abbiamo detto settimana scorsa, non ci sono più riunioni della Federal Reserve, quindi si va avanti come si è deciso settimana scorsa. È corretto, quello che proprio infatti stavo proprio dicendo, che c'è stata una riunione dove qualcuno si aspettava, proprio per l'appoggio a Trump che è abbastanza evidente da parte della Federal Reserve, si aspettava forse anche un'iniezione ulteriore di denaro o con un QE attraverso un quantitative easing ulteriore. Invece non è stato fatto, è stato confermato tassi bassi almeno fino a tassi fermi a zero almeno fino al 2023, però non è stata data ulteriore benzina al mercato. Questo ovviamente il mercato ha preso atto che da qua alle elezioni americane la banca centrale non potrà fare nulla, quindi questo ovviamente è una cosa che non aiuta i mercati. Anche se in realtà Jerome Powell parla al congresso americano, c'è una testimonianza del presidente della Federal Reserve per l'appunto sugli sforzi per mitigare l'impatto della pandemia, che parte domani e si conclude giovedì. Sono delle testimonianze estenuanti che durano un sacco di giorni. Nel pomeriggio parla anche Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea. Non ho segnalato peraltro questa mattina mai nel collegamento delle 9 né alle 10:30 che ci sono due gruppi importanti che staccano il dividendo a Piazza Affari, sono Eni ed STM, anche se per la verità non c'è un impatto particolarmente significativo su questi titoli. Il calo è diffuso su tutte le società, su tutti i grandi gruppi industriali e bancari, e questa mattina Milano complessivamente, se non un ascoltatore fra un po' mi striglia, perde il 2,60%, Parigi meno 2,39%, Francoforte meno 2,39% e Londra la più pesante in calo del 3%. L'Italia, non citi per carità nomi di politici, Riboldi, perché siamo ancora le in piena, urne sono aperte. Esatto, in piena consultazione, quindi siamo stati bravissimi nel rispettare la consegna che ci viene imposta naturalmente per le questioni elettorali, la par condicio, non mi viene in mente adesso, ma insomma a seconda di come potranno andare le cose qua in Italia, visto che gli italiani sono stati chiamati ad esprimere il loro giudizio sia sul referendum, in molte regioni, in 7 regioni appunto si è votato, che aspettative hanno gli operatori finanziari rispetto a questo tema nel nostro paese? Beh, sicuramente diciamo quello che oggi guardano molto i mercati, non solo italiani ma ovviamente i mercati internazionali, è una continuità politica in Italia, perché ovviamente tutto il tema del recovery fund europeo, che è stato appunto negoziato recentemente da questo governo, verrà implementato nei prossimi mesi, quindi la stabilità è quello che tutti si auspicano, quindi qualcosa che allontani la situazione politica dalla stabilità attuale verrebbe visto in maniera non positivissima. Abbiamo visto però in altre occasioni che spesso i mercati sono abbastanza indifferenti alla politica italiana, Riboldi, o in questo caso magari un po' più di attenzione perché si collega al discorso della posizione europea, dice lei. Guardi, qui quello che dico è che comunque chiunque, diciamo, qualunque risultato ci sarà, è difficile muoversi dalla strada tracciata. Abbiamo preso un impegno in Europa, un impegno che va rispettato, un impegno che ci porterà fra l'altro un sacco di soldi, e quindi penso che nessuno avrà il coraggio di andare contro la linea europea seguita finora dall'Italia. Senta Riboldi, un altro tema, stacchiamoci totalmente dalla dinamica nazionale, andiamo a quella internazionale di nuovo. C'è un settore del quale parliamo pochissimo, ma che in realtà è comunque molto importante, perché chiaramente, come dire, è un comparto che è direttamente legato anche alle prospettive di crescita di grandi economie mondiali, soprattutto quelle emergenti. Parliamo del settore delle materie prime, molto sensibile all'andamento del cambio, in particolar modo all'andamento del dollaro, e abbiamo avuto addirittura un bel gruppo di commodities che ha toccato i minimi in termini di quotazione da decenni nelle ultime settimane, per poi riprendere quota. Ci racconta un po' che cosa sta succedendo in questo settore, perché è così importante tenerlo sotto stretta osservazione? Sì, il settore delle materie prime è giustissima la sua osservazione, perché è un settore che è molto importante, perché incide moltissimo nel paniere proprio anche inflattivo, quindi nel costo della vita di tutti quanti noi, ed è molto importante perché ovviamente in alcuni paesi ovviamente più sottosviluppati l'aumento di prezzo di certe materie prime o la diminuzione può cambiare molto il reddito disponibile del consumatore. Quello che abbiamo visto è un indebolimento del dollaro, che storicamente c'è una correlazione perfetta inversa, cioè dollaro debole vuol dire indice delle materie prime che sale, che è più forte. Negli ultimi sei mesi abbiamo assistito prima a un recupero dei metalli industriali legato al recupero dell'economia post pandemia, picco diciamo di marzo-aprile, dopodiché c'è stato un recupero del prezzo del petrolio. Ricordiamoci che abbiamo avuto un giorno addirittura col petrolio che aveva toccato lo zero a livello di futures a brevissimo ben termine, sotto lo zero, direi, ben che era finito zero. Era il 20 eravamo, aprile, proprio in questi giorni con Mauro ne stavamo parlando, richiamando meno 37 dollari, un fattore tecnico per cui per un motivo tecnico si era andati abbondantemente negativi, no? Poi se uno guardava il future a un anno in realtà si era mosso di qualche dollaro, però certo c'è stato un crollo pazzesco Dalla parte del future a breve. No, ecco, da lì c'è stato un grande recupero, perché il petrolio aveva toccato i 40-45 dollari giorni scorsi per stabilizzarsi in area più o meno 40 adesso, mentre invece l'unico settore che era rimasto ed era continuato a scendere era il settore delle materie prime, che ha toccato il minimo, come diceva prima, di circa 35-40 anni fa, solamente tre settimane fa, per poi salire di un 15% recentemente. Questo perché tutti quei consumatori cinesi, indiani, che fanno la gran parte del consumo, sono circa più di metà della popolazione mondiale, è tornata a consumare una volta che i lockdown sono andati via via ad esaurirsi in quei paesi lì. Quindi ci sono ancora dei lockdown parziali in India, però ovviamente anche lì la crisi economica li ha forzati a lasciare un po' più le briglie sciolte. Quindi in questo momento quel settore lì ha recuperato, va guardato con molto interesse, perché un eventuale aumento delle materie prime di solito, se dovesse essere troppo rapido o troppo veloce, va a impattare molto proprio anche la stabilità sociale di quei paesi emergenti. Io faccio veramente un salto da tutt'altra parte. Tecnologia, Stati Uniti, vicenda che si collega poi al commercio internazionale, alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La tecnologia americana ha dei titoli che hanno fatto una cavalcata imponente, irripetibile forse. Adesso queste vicende con TikTok potrebbero alterare ulteriormente, dare ulteriore carburante per crescere ancora? Allora, ho toccato un tema importantissimo, cioè il tech americano è stato il grande driver di questo rialzo. Se uno guarda gli indici, alla fine il rialzo è stato fatto quasi esclusivamente dal tech americano. Sicuramente l'operazione TikTok, adesso insomma c'è una vendita parziale, si sta un po' rivelando da quello che sta venendo fuori in questi giorni, alla fine non così drastica come l'aveva preannunciato all'inizio il governo americano. Sicuramente è qualcosa che minaccia la tecnologia cinese da un lato, ma anche ovviamente l'operatività degli americani in Cina. Apple comincia ad avere dei seri problemi in Cina, perché chiaramente i cinesi cominciano a mettere i bastoni tra le ruote anche ad Apple, quindi credo che andremo su due standard tecnologici molto diversi, cioè la Cina con i suoi standard tecnologici, Stati Uniti e probabilmente Europa con i loro standard tecnologici. Una cosa che volevo dire sul settore della tecnologia, visto che ha introdotto un tema interessante, che uno dei motivi secondo me della debolezza anche del Nasdaq, in particolare negli ultimi 10 giorni, che ha perso un po' più del 10%, il fatto che c'è stata una vera e propria esplosione di IPO come credo che non si è mai vista nella storia, una concentrazione in 2 settimane di qualche centinaio di miliardi di dollari di offerte di nuovi titoli che sono andati in borsa. Anche, non so se avete visto, Snowflake, è una società che fa cloud computing. Sì, l'abbiamo detto. Che investe, è molto investito Warren Buffett, esatto, ha fatto più 130% il giorno del debutto. 130, sì. No, nel primo giorno, per andare a 80 miliardi di valore di borsa a fronte di un fatturato di quest'anno di circa 400 milioni di dollari, quindi 160 volte circa il fatturato. Ecco, sono cose ovviamente che quando c'è questo boom di flussi, anche cioè di IPO, anche se i flussi sulla tecnologia sono molto forti, alla fine la domanda di carta, di denaro è ancora più forte dei soldi che arrivano per investire nel settore, quindi ha creato questo un forte sbilancio che finché non viene rallentato dal numero di IPO che vanno sul mercato si trova una situazione ovviamente difficile per i titoli tecnologici. Grazie a Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, per averci illustrato il clima e qualche previsione anche della settimana sui mercati finanziari. Andiamo al giornale radio del risparmio. Volentieri. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Allora, prima dell'ennesimo serpente corallo che abbiamo trovato, voglio rispondere ad un ascoltatore, perché a me dispiace molto quando dovete sempre farci le pulci su tutto. Un ascoltatore contesta la questione del fatto che abbiamo accoppiato sostanzialmente, anche a distanza di 10 anni dalla loro morte, anche questa mattina di nuovo Raimondo Vianello, appunto, e Sandra Mondaini, perché sono morti esattamente 10 anni fa. A distanza di qualche mese l'ascoltatore contesta il fatto che abbiamo detto che sono 10 anni dalla scomparsa di entrambi, perché è come se avessimo detto che sono morti nello stesso momento. Adesso io voglio dire, ma non avete niente da fare la mattina che mettervi a mandare dei messaggi che contestano veramente ogni pelo delle nostre dichiarazioni? Raimondo Vianello è morto ad aprile, nel 2010. Il 15 di aprile, sì. Sandra Mondaini è morta in settembre. Esattamente 10 anni fa, il 21 di settembre. Allora, ma se può sapere cosa volete, abbiate pazienza. No, ma noi non intendevamo dire che erano scomparsi come Filemone e Bauci. Esatto. Non so se tu conosci la No, vicenda. Ma immagino che tu voglia dire, insomma, nello erano stesso, due anziani signori. Come molto spesso capita, peraltro. Sì, sì, che chiesero agli dèi che una sola medesima ora li portasse entrambi nell'aldilà. Va bene, ma lasciamo queste cose, torniamo invece alle tristezze dei serpenti corallo. Non l'abbiamo trovato noi, l'ha trovato la Consob, ne ha trovati altri 5. Sì, nomi impronunciabili peraltro. Sì, 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'autorità, tra l'altro, di recente con un decreto sono stati stabiliti nuovi poteri più cogenti per la Consob per intervenire sui mercati finanziari, e quindi sfruttando anche questi poteri ha deciso l'oscuramento di 5 siti web che offrivano servizi finanziari senza autorizzazione. È evidente che in questo modo uno si mette nelle mani di persone che molto facilmente possono truffarlo. Non c'è un'equivalenza perfetta, però insomma, se come dire, si decide di investire su mercati esotici senza legami e senza autorizzazione in Italia, poi è difficile far valere le proprie ragioni se si presenta qualche eventualità non felice. Vi ricordiamo sempre, guardate sul sito www.consob.it, prima di decidere, specialmente se volete seguire qualche cosa che avete trovato online, qualche pubblicità. Infatti, su internet. Tra l'altro, appunto, con queste ultime 5 operazioni sale a 284 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio del 2019, quindi in poco più di un anno. Senti, oggi parliamo di mutui, allora volevo segnalare ai nostri ascoltatori che domani in diretta streaming c'è il terzo Real Estate and Finance Summit del Sole 24 Ore, organizzato appunto dal nostro gruppo da 24 Ore 20 in collaborazione con INS. È un momento di confronto molto importante con i principali operatori del settore per approfondire qual è l'impatto della pandemia sul settore, fare il punto della situazione del settore del real estate italiano e sul ruolo che questo può giocare nella ripresa economica e la rigenerazione urbana delle nostre città. Per poter partecipare, la partecipazione peraltro è gratuita, potete registrarvi sul sito www.eventi.ilsole24ore.com/realestatesummit/, che è praticamente la barra di traverso quella lì, no? Sì, comunque se voi cercate già da eventi.ilsole24ore.com poi trovate tutto l'elenco e da lì il Real Estate, l'evento di domani appunto dedicato a questa vicenda. Oh, intanto l'ABI ha chiesto un posticipo della scadenza delle moratorie sui prestiti, che attualmente la scadenza è fissata al 30 di settembre. Il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, ha precisato che le banche che operano in Italia e più in generale in Europa chiedono di evitare il rischio che queste misure di flessibilità a supporto a imprese e famiglie siano ritirate troppo presto. Direi, perché sennò qua si di nuovo esplode l'ennesima problematica degli NPL, crediti deteriorati, crediti non più esigibili, come si dice, e quindi sarebbe effettivamente un bel problema. Allora facciamo così, dacci l'aggiornamento sui mercati finanziari, certo, cortesemente, e poi andiamo a parlare di mutuo con esperti, come sempre, di valore mondiale, qui a Due di Denari. Le borse. Soldi buttati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta di denari. And we're down, we go, go, go, go. Buongiorno, io vorrei fare la surroga, ma siamo rivolti a diverse banche e non ci danno il prestamo perché siamo sotto il 75.000 euro e loro lo fanno più alto. La ringrazio. Brava Deborah, bisogna dirle queste cose, questi rompipalle che avete, mamma mia, come sono, a Torino dicono pistini, io non sono di Torino come si sente dal mio accento, però brava, bisogna dirgliele queste cose, che la loro vita, insomma, ma non hai niente da fare, ma dai. Un po' di solidarietà dagli ascoltatori. Va bene, senti, allora. Ma sono tutti, io lo dico sempre, Deborah, sono tutti affetto. Messaggi d'amore. Tutti messaggi quindi d'amore. Quindi dobbiamo accoglierli in questo senso. Così come accogliamo con amore. Certo. Un grandissimo esperto che sempre abbiamo qui a Due di Denari, spesso abbiamo interpelliamo quando parliamo di mutui, è Roberto Anedda, direttore marketing di mutuionline.it. Buongiorno, bentornato a Due di Denari. Buongiorno, grazie, ben ritrovati anche agli ascoltatori, condivido e contraccambio in pieno l'affetto. Aspetta, e la solidarietà. C'è comunque la seconda puntata, perché l'ascoltatore, il mio sms sulla coppia Mondaini-Vianello non era per farvi le pulci, è che vi seguo perché siete bravi e date molte informazioni preziose. Vabbè, Harry, ha cosa recuperato. Cosa ti dico io, che sono messaggi d'amore, vedi, non mi dai retta. Vabbè, senti, allora, informazioni messaggi preziose, d'amore, esatto. Messaggi d'amore per chi vuole fare il mutuo, perché abbiamo letto sul Sole 24 Ore, Anedda, qui siamo oramai, fare un mutuo a tasso fisso, che notoriamente abbiamo sempre detto il tasso fisso è più caro, la rata diventa più cara rispetto al tasso variabile, ma adesso invece, l'ha scritto il Sole 24 Ore, e adesso no, cioè sostanzialmente siamo alla pari col tra il fisso e il variabile, è proprio così? Effettivamente sì, ormai per quello che è stata la dinamica del costo del denaro nel tempo, la famosa forbice di cui abbiamo sempre parlato anche da questi microfoni tra fisso e variabile si è praticamente annullata, perché tra i migliori tassi fissi e variabili c'è ormai un differenziale di a volte di soli 10 o 20 centesimi di punto, quindi praticamente un costo equivalente e, per rimanere in termini di amore e affetto, il grande amore degli italiani per la casa e anche per il tasso fisso trova quindi qua le condizioni migliori, perché cosa di meglio di un tasso fisso così basso per un, come dire, un rapporto stabile di lunga durata con il mutuo. Domani noi avremo, come abbiamo ricordato poco fa agli ascoltatori, questo summit sul real estate, insomma si discuterà in questo evento che si potrà seguire in digitale qui dal Sole 24 Ore dell'andamento del mercato immobiliare. Questo favore quasi insperato, diciamo sempre inedito, mai visto, inaudito per il tasso fisso e per i mutui, dovrebbe far risollevare il mercato immobiliare. Non vediamo però delle quotazioni così calde, per usare un termine gentile. Beh, attenzione, il fatto che ci siano dei tassi favorevoli certamente aiuta e, come dire, invoglia, avvicina molte famiglie all'acquisto immobiliare in maniera più accessibile, più tranquilla, proprio perché tassi così contenuti permettono intanto di avere rate molto basse e poi soprattutto, come dicevamo poco fa, certe per tutta la durata del mutuo, per cui si può meglio pianificare l'investimento. Detto questo, veniamo comunque da così tanti anni di incertezze per motivi vari che è anche corretto, ce lo si possa aspettare, che il mercato immobiliare reagisca comunque con gradualità e prudenza. Cioè, sarebbero probabilmente pericolose improvvise fiammate di prezzi entro breve termine verso l'alto, perché potrebbero esaurirsi rapidamente e portare poi il mercato a un'ulteriore stagnazione successiva. Nel mio personale giudizio credo che per la salute di lungo termine del mercato immobiliare sia meglio invece puntare su una crescita graduale e contenuta dei valori, di modo che si possa smaltire intanto la crisi che ha avuto in questi ultimi 10 anni, mantenendolo comunque a un buon livello di coerenza con quelli che sono anche i redditi delle famiglie e in generale la condizione economica. Infatti, perché... proprio come terzo elemento volevo aggiungere questo, Roberto Anedda: fra tassi di mercato da applicare ai finanziamenti e le quotazioni poi dell'immobile, del mattone italiano, c'è il terzo punto, che è la capacità di spesa delle famiglie. Voi che cosa state notando anche in termini di richieste di mutui? Insomma, perché anche dalla tipologia di prestito che vi chiedono, dalla durata e dall'ammontare totale, si può desumere anche qual è la capacità finanziaria che le famiglie italiane possono mettere in campo in questo momento per esaudire il loro sogno di casa. Sì, una delle indicazioni che si rilevano è proprio il fatto che questo livello così contenuto di tassi permetta anche a fasce di reddito più basse di accedere con maggiore facilità ad un finanziamento, e soprattutto permette di richiedere finanziamenti per la parte più alta, diciamo così, della richiesta di finanziamento, cioè quella che va nelle soglie di percentuale di valore dell'immobile molto elevate. Sappiamo che normalmente le banche arrivano fino all'80% del finanziamento dell'immobile, in alcuni casi ci sono anche istituti che si spingono fino al 100%, ma con costi ovviamente più elevati, ma rimanendo in quello che rappresenta il 90% delle richieste di mutuo, una buona metà si concentra proprio nella fascia tra il 60% e l'80% del valore dell'immobile. Quindi questo è un buon segno, parliamo di poi pratiche erogate, quindi questo è un buon segno perché indica che anche chi, come normalmente succede, ha necessità di una buona parte del capitale per poter acquistare l'immobile, possa più facilmente rispetto a anni precedenti accedere anche a finanziamenti più importanti in termini di valore con favore da parte della banca, proprio perché tassi così bassi permettono anche con redditi contenuti di mantenere la rata entro i termini di finanziabilità concessi dalle banche. C'è un giovane ascoltatore che chiede se chiedendo un mutuo dopo i 60 anni, lui pone il caso a 61 ad esempio, e dice: è possibile? Beh, ovviamente sì, non c'è nessuna norma che lo impedisce, ma la domanda ovviamente, come lei capisce benissimo Anedda, è: possono farmi condizioni peggiori, possono impormi condizioni peggiori? Cosa succede di solito? No, diciamo condizioni peggiori assolutamente no, perché i parametri sono più che altro legati al rapporto tra rata e reddito e alla percentuale di finanziamento. L'unico limite che si può incontrare in età più avanzata è quello che ci sia un limite alla durata complessiva del mutuo che può essere concesso, perché normalmente la banca fa un calcolo di somma tra la durata del mutuo e l'età del richiedente e non si spinge normalmente oltre gli 80 anni, quindi diciamo che all'ascoltatore di 61 anni potrebbe essere concesso un mutuo magari fino a 20 anni, esatto, 15 fino a 20 anni, perché poi ci sono anche istituti che erogano per cadenze anche annuali, a parte le classiche categorie di 15, 20, 25, però chiaramente potrebbe avere lo svantaggio, tra virgolette, di non potersi spingere alle massime durate possibili, che se è vero che complessivamente fanno pagare un pochino più di interessi, però permettono allo stesso tempo di ridurre ulteriormente l'importo della rata mensile. Allora, fermiamoci un attimo, prendiamo fiato, così rileggiamo anche tutti i vari messaggi che stanno arrivando. Non so se qualcun altro, il giovane ascoltatore 61enne, faceva anche i complimenti, Deborah, te lo volevo dire. Ti relaziono meglio mentre ascoltiamo il traffico. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico. Due di denari. Buongiorno, sono Ciro da Modena. Io volevo un'informazione. Il mutuo che ho io è intestata a tutte e tre, a me, a mia moglie e mio figlio. Adesso mio figlio non lavora più, io volevo fare una surroga, però non mi permettono di farla, perché dice che il più giovane è mio figlio e non lavora. Come posso fare? Grazie, ciao. Ciao Radio 24, io sono Francesco, vi guardo tutte le mattine e mi piace molto il vostro programma e vi volevo salutare. Ciao, tanti saluti e tanti bacioni. Ciao, buona giornata, tanti bacioni. Io mi metto a piangere adesso. No, teniamo... Aspetta almeno fino a mezzogiorno. Posso mandare un grande bacione a Francesco? Certamente, per non fare così che poi mi commuovo anch'io. Stiamo sul pezzo, Deborah. Dobbiamo essere professionali. Ringraziamo ovviamente Francesco con tutto il cuore. Anedda, questa vicenda del mutuo, non ho capito. Ripartito. Esatto, a tre, il mutuo trino, come si gestisce? È un po' complesso, perché effettivamente la normativa prevederebbe che per una surroga si debbano tenere immutati i parametri principali del mutuo, ovvero l'importo residuo del debito, l'immobile ovviamente a cui esso è legato e anche gli intestatari. In questo caso specifico che spiegava Ciro, chiaramente uno dei tre intestatari adesso non ha più un reddito, quindi il figlio, e quindi per la nuova banca ci potrebbe essere una modifica di parametri di finanziabilità rispetto a quello precedente. È un po' complesso, obiettivamente bisognerebbe può essere anche una discrezionalità della banca, andando ad un'altra magari potrebbe essere più disponibile ad accogliere questo caso. Suggeriamo all'ascoltatore di andare a fare un'altra richiesta. Su più banche, perché con una serie di procedure è anche possibile, come dire, ratificare la diversa operazione, perché altrimenti il rischio è che il prodotto da surroga diventi mutuo di sostituzione, che a livello pratico cambia poco, perché comunque si cambia banca, si ha un nuovo mutuo, però la differenza sostanziale è che con la surroga il costo è zero, come ben sappiamo. Nel caso invece di un mutuo di sostituzione, certo, non potendo godere di tutti gli sgravi, si avrebbe di nuovo il costo dell'istruttoria, del notaio. Perché praticamente è come se uno chiedesse da zero, perciò devono essere fatte di nuovo tutte le verifiche. Sì, esattamente. Quindi bisogna capire, perché casi di questo tipo ci possono essere, contattando più istituti, se ci possono essere quelli che magari con procedure interne riescano, come dire, a creare una sorta di ponte tra le due operazioni, in modo che poi risulti fondamentalmente una corrispondenza di intestatari anche al netto del terzo, che in questo caso, anche per motivi indipendenti dalla sua volontà, non può essere incluso nel novero dei nuovi intestatari. Anedda, prenda appunti, perché le sottopongo due questioni. La prima è la risposta che dobbiamo dare alla prima ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio e ci chiedeva come mai le banche a cui mi sono rivolta non mi surrogano il mutuo, ho un importo inferiore ai 75.000 euro e quindi voglio capire per quale ragione appunto respingano la mia richiesta. Io pensavo che per cifre inferiori che diventano da mutuo a, come dire, prestiti e credito al consumo, effettivamente non era possibile effettuare questo cambiamento, però per 75.000 euro, quindi mi chiedevo se il sistema bancario ha un po' cambiato i suoi target e respinge anche cifre come questa. Seconda domanda invece le volevo chiedere se ci faceva, secondo le tabelle di Mutui Online, proprio un paio di simulazioni, un mutuo a 100.000 euro per 20 anni, tasso fisso e variabile, quali sono le condizioni che si possono spuntare in questo momento, se ci fa un'ipotesi di rata per far capire anche ai nostri ascoltatori come viaggia il mercato in questo momento. Sì, allora, partendo dalla richiesta sulla surroga, effettivamente negli ultimi anni abbiamo visto, in funzione del boom periodico delle richieste di surroga, gli istituti mettere a volte dei paletti aggiuntivi un po' per frenare un'eccessiva euforia nella richiesta di surroga, che a volte portava anche chi aveva ormai debiti residui minimi o durate residue minime a fare una richiesta di surroga solo magari per la soddisfazione di avere un tasso ancora più basso. In questo caso però l'importo effettivamente, come già ben notavate voi, non è particolarmente contenuto. Diciamo che in genere la soglia al di sotto della quale può diventare più difficile ottenere una surroga è quella dei 50-60.000 euro, combinata comunque anche appunto con la durata residua. Quindi sicuramente, anche per la nostra esperienza di questi ultimi periodi, ci sono istituti tranquillamente disponibili anche per erogazioni su cifre di questo tipo. E il consiglio è inevitabilmente, anche se può per certi versi impegnare più tempo, contattare più istituti. Adesso non lo dico perché parlo a nome di Mutui Online, obiettivamente uno dei canali con i quali può essere più semplice e veloce farlo è proprio quello comparatore, di un comparatore, certo, che permette, almeno al di là del vedere delle condizioni diverse di quali banche effettivamente si dichiarano disponibili per certi importi, e parlando poi con i consulenti direttamente, capire che fattibilità pratica effettiva ci può essere e quindi poter andare in maniera più mirata verso quegli istituti che in quel momento specifico di mercato risultano essere disponibili e quindi più aperti ad accettare richieste con determinati parametri. Sì. L'elaborazione, la simulazione, meglio, esatto. 100.000 euro, vorrei un mutuo per essere finanziato per 100.000 euro a 20 anni. Che sì, cosa posso trovare? Esatto, partiamo dalla condizione migliore in assoluto, ovvero quella in cui fortunatamente per me mi serve una montata di capitale contenuto rispetto al valore dell'immobile e quindi posso godere delle migliori condizioni di mercato, quindi il classico 100.000 euro di mutuo su 200.000 di valore dell'immobile. In questo caso un tasso fisso partirebbe, nella migliore delle ipotesi, dallo 0,40%. Sì, abbiamo detto davvero 0,40, non è un errore di lettura, incredibile. 4 decimi di punto. Quasi mi dispiace che nel mio ho finito di pagare gli interessi, perché volevo sperimentarlo questo 0,40, mannaggia. Sì, ma è la stessa cosa che dicevo prima di alcuni che volevano fare la surroga solo per, come dire, fregiarsi, esatto, del poter avere un fisso così basso. Infatti. Comunque la rata sarebbe di poco superiore ai 430 euro, 434 per offerte simili, oscillerebbe comunque tra i 434 e i 440. Se anche dovessimo ipotizzare di spingerci al massimo con il finanziamento ottenibile, quindi arrivando al famoso 80%, quindi 80% del valore dell'immobile, con un solo 20% da dover poi aggiungere di tasca propria, i tassi ovviamente salgono, perché come sappiamo per loan to value più elevati anche gli spread delle banche crescono, ma rimaniamo comunque ben sotto l'1%, le migliori offerte partono dallo 0,83-0,85 e in questo caso la rata, ma ovviamente per il fatto che si chiede il 60% di capitale in più rispetto all'esempio iniziale, sale a 720-725 euro, però ripeto con la possibilità di ottenere l'80% del valore dell'immobile. Come dicevamo all'inizio, nel caso di un tasso variabile i differenziali sono minimi, perché in questo momento la migliore offerta di tasso variabile è dello 0,24 o 0,29, qui veramente ci avviciniamo alla soglia dello zero assoluto, ma la rata non è molto diversa, perché siamo tra i 427 e i 429 euro, quindi ballano, tra virgolette, dai 5 ai 7 euro rispetto al tasso fisso. Situazione non molto diversa, se anche in questo caso con il variabile ci spingiamo all'80% del finanziamento dell'immobile, perché in questo caso come tassi saliamo se internet ci aiuta, perché in questo momento si è bloccata l'applicazione. I pericoli della diretta, eccoci qua. Saliamo allo 0,55, quindi in questo caso il differenziale rispetto al fisso è leggermente più elevato, ma parliamo sempre di come dire, valori minimi. Sì, sono 20 centesimi di differenza più o meno. Esatto, 30 esatto. Centesimi. Esatto, e la rata è di 700-705 euro, quindi in questo caso il differenziale di rata da 5-7 euro di prima sale fino a 15-20 euro, che ovviamente leggermente di più, ma a questo punto quello che subentra è la valutazione che tanti italiani in questi anni e mesi stanno facendo, ovvero che con un differenziale così basso vale la pena assicurarsi, diciamo, contro potenziali incrementi futuri del costo del denaro e quindi anche del tasso variabile, che non sono preventivabili, ma soprattutto il concetto è che fosse anche un incremento minimo, comunque in breve tempo vi porterebbe una rata come minimo pari al fisso se non superiore, certo. Quindi in questo caso rispetto a una volta il rischio di pagare di più col variabile è maggiore rispetto a quello del tasso fisso, quindi un sostanziale capovolgimento della realtà, certo, che conoscevamo fino a 5-6 grazie, grazie Roberto Anedda. Grazie Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, e noi torniamo domani con l'ABC del risparmio. Esatto. Buona giornata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.